Questa settimana al Nova Festival continuano i grandi concerti e c'è un concerto che è proprio la prima data di un tour che sarà poi in giro per tutta l'Italia per quest'estate. Abbiamo deciso di intervistare l'artista che salirà sul palco, un artista che a noi piace molto, che già l'anno scorso avevamo intervistato e ci teniamo a riaverla qua con noi ai microfoni di Radio Città Fujiko. Parlo di Margherita Vicario. Grazie Margherita per essere qua con noi. Grazie a voi, ciao a tutti. Come stai? Iniziamo con questa domanda. Bene, un po' stanchina, ieri ho fatto un po' bagordi, però bene, benissimo. Mi viene in mente già una tua canzone, allora. Esatto, l'inizio di Mandela. Esatto, parlo proprio di quella. Io in realtà ti volevo intervistare perché appunto tra poco inizierà il tuo tour. Inizia da Bologna il 18, quindi tra pochissimi giorni al Nova Festival. Tu però sei reduce da un tour che è finito da poco in realtà, un tour indoor. Com'è andata e com'è stata tornare davanti al pubblico, con un pubblico sotto palco finalmente? È stato bellissimo e soprattutto era veramente raccogliere tutto quello che era stato seminato in questi anni. E poi le persone hanno veramente voglia di stare insieme, no? E quindi di godere del live proprio come ce lo ricordavamo. E in più c'è una super band, quindi è un concerto molto coinvolgente, divertente, anche fisicamente prestante, insomma faticoso, però non vedo l'ora di ricominciare. E anche nel tour estivo, appunto dal 18, ci sarà la stessa formazione, la stessa super big band. Mi immagino che anche quest'anno speriamo davvero di poter ballare sotto palco, non ci sono più le restrizioni finalmente, insomma. Sì, assolutamente, ma poi ci sono i fiati sul palco, c'è una sezione fiati, quindi cioè, si sente proprio. Non solo è coinvolgente, ma è proprio potente, capito? È divertente per quello, perché quando sono i fiati sul palco è sempre, cioè, è proprio sempre una festa già così a prescindere. Non potremo stare fermi, insomma, sappiamo già che sarà così. Sì, ma invece Esatto. sul palco suonerai anche, immagino, il tuo nuovo singolo, Onde, che è uscito da Sì. pochissimo. Una canzone che a noi ha colpito, l'abbiamo già fatta passare un po' di volte qua su Radio Città Fujiko perché ci è piaciuta. Al primo ascolto sembra quasi un tormentone, ma forse non lo è. Ci spieghi un po' tu l'approccio a questa canzone? Ma allora, innanzitutto è una canzone che sì, per la prima volta ho scritto in coscrittura, sai che cioè, vengo dal cantautorato e rimango, come dire, cantautrice, però sono anche cambiati i modi di scrivere, per cui questa canzone è nata proprio insieme a loro, Andrea Bonomo, Edwin Roberts, vero, sembra, c'è proprio l'andamento da canzone estiva tormentone, però poi come al solito sotto sotto c'è tutto un po' comunque un punto di vista, un punto di vista sulla realtà. E quindi niente, parla un po' di questa movida estiva che un po' a volte non sembra per niente riposante, no? Invece è come se ogni tanto vivessi anche l'estate come un momento di no, il sovraffollamento, il traffico. Sicuramente, no? D'estate uno deve fare cose, deve divertirsi, andare in spiaggia a ballare. Esatto, però sembra proprio che anche quello è diventato capito, un obbligo, Un dobbiamo lavoro andare a quasi. divertirci, un lavoro. Allora invece veramente farsi un bagno in mezzo alle onde, forse è quello, come dire, il vero rigenerarsi. Riguardo a questa canzone, poi c'è anche un video molto divertente. Ti chiederei chi ha collaborato e come mai avete scelto di raccontarlo in questo modo. Sì, l'hanno fatto i Trilatera. Yuri e Daniele sono un collettivo molto bravo, un po' dark. L'abbiamo fatto in questo modo, innanzitutto ho scelto Teresa Romagnoli, che è una super attrice che amo come mia compagna di giochi. Semplicemente siamo partiti dall'idea appunto di mettere un che di pericoloso in questa estate, che però poi viene, come dire, invece di pericoloso nel senso di, sai, prima che c'è un pochino nei cocktail, prima che, presente quando stai in una serata e magari non ti va neanche di starci e ti bevi sti 20 cocktail e poi dici ma perché non sono andata a casa a leggere, a dormire, Giusto, è insomma vero, vabbè, succede anche cioè così. succede anche così nel senso ovviamente l'estate dà paura perché finalmente esci, balli, ti diverti, poi a volte insomma è sempre un po' nella misura e quindi niente, l'abbiamo fatto un po' dark perché c'è questo viaggio notturno in un'estate però cittadina, perché è un po' quella anche che io vivo spesso, perché magari d'estate lavoro. Molto bene, allora Onde l'abbiamo ascoltata in apertura di questa intervista, quindi a questo punto ti chiederei se ti va di scegliere un'altra canzone per noi da far ascoltare appunto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Sì, allora Giubbottino? Va benissimo, allora ascoltiamo Giubbottino e torniamo da te. La tua voce comunque rimane sempre inconfondibile, decisamente, però forse in onde, in quest'ultimo singolo, c'è stato un po' un cambio di sonorità, come dicevamo, no? Fa un po' l'occhiolino al tormentone. Nel tempo, in tutta questa nuova uscita di singoli, c'è stato un po' un cambio anche nelle tue influenze musicali o è solo così un colpo estivo, un colpo d'amore estivo? Onde? No, diciamo che l'idea di cambiare ogni tanto traiettoria ha sempre fatto parte della mia musica. Io lavoro sempre con Dado, il mio produttore, però per esempio anche 2 anni fa abbiamo fatto un altro singolo estivo, un po' sull'onda proprio dei singoli estivi, quindi era quasi latino, no? Era Piña Colada. Però no, cioè più che un colpo estivo, ovviamente ragionare a singoli vuol dire anche che un po' devi, come dire, seguire quello che succede, perché la musica comunque cioè è sempre un po' anche specchio di quello di quando viene, no? del tuo momento. Però no, io assolutamente sto lavorando anche a tante altre cose e, come dire, sempre un po' cambiare stile è nelle mie corde. In più, come ti dicevo, iniziare a lavorare anche con altre persone fa sì che ci siano più contaminazioni. Infatti proprio riguardo a questo ti volevo chiedere, c'è stata l'uscita di Bingo che comunque è stato un successone, poi una serie di singoli che sono usciti dopo Bingo, tra cui appunto l'ultimo è stato Onde, è un preludio a una nuova uscita di un nuovo album che già c'è o che ci si sta un po' pensando, e anche visto che è una cosa che sta succedendo molto in campo discografico di fare tantissimi album con collaborazioni, se anche tu stai pensando a questa cosa. Ma album con collaborazioni, guarda, sì, sono idee molto discografiche, come dicevi te, nel senso che io tendo di solito a fare collaborazioni con persone magari che conosco, che stimo. Ora è appena uscito nel disco con Rafael Gualazzi, abbiamo cantato una canzone bellissima, vabbè, della Vanoni e Totigno. Nel senso, cioè, quando anche gli incontri, no? Ho progetti e ho canzoni nel cassetto, assolutamente ci sto lavorando, però niente di ancora così definito come dicevi tu. E qualche collaborazione sicuramente ci sarà, però insomma non mi vengono così automatiche, ecco, devo sempre cercare qualcuno con cui instaurare il tipo Piña Colada è stato un featuring con Izzy ed è stato proprio, insomma, l'abbiamo proprio fatto insieme, capito? Ci deve essere una connessione, insomma, no? Non sì. Può essere a tavolino, forse. Esatto. Molto bene, quindi per l'album ancora non sappiamo niente, ma stai per buttarti in un'estate, dicevamo un'estate in cui lavori, un'estate impegnativa, perché poi inizia il tuo tour, inizierà da Bologna, ma già le date sono tantissime. Cosa ci possiamo un po' aspettare da questo nuovo tour? Beh, vi potete aspettare una serata, come dire, cioè portateci qualcuno a cui volete bene, perché è un tripudio di, come dire, ballo, canto e anche molto affetto, ecco. I miei concerti sono sempre, come dire, ad alto livello di, così, emotivo. Beh, allora noi confermiamo, perché in effetti quando ti abbiamo visto l'ultima volta è stata veramente una serata pazzesca, quindi e ne siamo usciti felici, tutti col sorriso, e la cosa bella era vedere tutto il pubblico, nonostante fossimo ancora in periodi di restrizioni, tutte le persone col sorriso, tutti contenti, tutti alleggeriti, no? da questa ora e mezza di concerto che avevi fatto. A questo grazie punto, mille. Figurati, grazie a te che ci regali queste serate. E a questo punto io ti chiederei se per chiudere questa intervista hai voglia di scegliere una canzone, ne abbiamo citate tante in questa chiacchierata, insomma, se ne vuoi scegliere una e se vuoi anche spiegarci perché l'hai scelta, così le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori sono ancora più motivati a venire al Nova il 18. Sì, forse proprio per come hai detto tu, per il fatto che insomma, venire a un concerto e uscirne felici, ovviamente non è che ne esci felice solo perché hai ascoltato me, ma ne esci felice perché il concerto è comunque una dimensione collettiva, quindi sei quasi felice perché hai intorno persone felici, quindi i concerti fanno sempre bene. Allora forse per quello suggerirei di mettere Piña Colada, perché è proprio una canzone sulla felicità, che è molto relativa, soprattutto nella società in cui viviamo, per cui sembra che ci siano delle regole per essere felici, invece insomma ognuno ha le sue. E questo, direi che Piña Colada, che parla proprio di questo tema, può essere la giusta canzone per salutarci. Perfetto, allora noi adesso ce l'ascoltiamo, ti ringraziamo tantissimo e non vediamo l'ora di vederti il 18 qui a Bologna. Grazie a tutti, grazie mille.